Anima Jazz, un programma di jazz tradizionale e contemporaneo ideato e condotto per voi in studio da Bruno Pollacci. Buonasera, buonasera a tutte le mie ascoltatrici e i miei ascoltatori. Un grande abbraccio da Bruno Pollacci. Siete all'ascolto di Anima Jazz numero 670. Si parte subito stasera con un bel disco vocale che ci arriva dagli Stati Uniti. Si tratta della cantante Eugene Jones. Eugenie Jones ha realizzato questo nuovo progetto discografico intitolato Come Out Swinging. L'ha fatto insieme a Bill Anschel al pianoforte, Devon Lewis alla batteria, Clipper Anderson al contrabbasso, Michael Powers alla chitarra e poi abbiamo Jay Thomas alla tromba e al sax tenore ed Ernesto Pedianco alle percussioni. Il pezzo che vi faccio ascoltare stasera è uno tra i più significativi dell'album e nello stesso tempo anche il pezzo che apre il disco. Si intitola Swing Me. Buon ascolto. Color me spoiled, but I've been waiting just for you, baby, to take me by the hand, lead me to the dance floor where the rhythm can find me. Oh, then, baby, swing me to your dance floor where the rhythm can find me. take me by the hand and lead me to your dance floor, where the rhythm can find me, baby, swing me hard. Come on, baby. Come on, baby. Come on, baby. Baby, swing me, baby, swing me, baby, swing me hard. Come on, baby. Come on, baby. Come on, baby. Baby, swing me, baby, swing me, baby, swing me hard. You can swing me on a mountain top. You can swing me by the shore. Long as I'm in your arms, you can swing me a little bit more. Bene, questa era la voce di Eugenie Jones, questa cantante di colore americana che ha realizzato da poco questo CD intitolato Come Out Swinging in compagnia di Bill Henschel al pianoforte e poi Clipper Anderson al contrabbasso, Devon Lewis alla batteria, Michael Powers alla chitarra, Jay Thomas alla tromba e al sax tenore ed Ernesto Pedianco alle percussioni. Il CD è ricco di varietà espressive che vanno dallo scat addirittura, dal jazz più improvvisato con grande energia, alle cose più slow, più morbide, interpretate con capacità straordinaria da questa valida cantante che può spaziare tra il jazz e il soul con grande agilità e con una professionalità notevole. Ci siamo ascoltati Swing Me, che è il pezzo anche che apre l'album, e salutiamo Eugenie Jones per dare il benvenuto ad uno dei più interessanti percussionisti e compositori del jazz italiano, un jazz che spesso si fonde con la musica etnica. Sto parlando del gruppo Odvalla, capitanato dal batterista anche ma percussionista Massimo Barbiero, che insieme a Matteo Cigna, vibrafono, marimba, e poi Stefano Bertoli alla batteria, Becheri Dossù, Touré Djimbé, poi Dundu Quaté alle percussioni, e poi Andrea Stracuzzi sempre alle percussioni, Alex Quagliotti batteria e percussioni, con vari special guest che sono Israel Varela, Marta Raviglia, Gaia Mattiuzzi, Sabrina Olivieri, Manuel Attanasio, a parte Israel Varela che suona la batteria, gli altri sono tutti, come sapete, nomi importanti del jazz vocale italiano, Marta Raviglia, Gaia Mattiuzzi, Sabrina Olivieri e Manuel Attanasio. Il pezzo che vi voglio far ascoltare stasera è uno tra quelli che mi ha maggiormente impressionato ed è intitolato Cristiana, ed è una composizione originale del leader del gruppo di Odvalla, e cioè il validissimo Massimo Barbiero. Buon ascolto quindi con il gruppo di Odvalla dal CD Uomo Invisibile. Thank you. Questo era il delicatissimo pezzo che ci ha offerto il gruppo di Odvalla, capitanato da Massimo Barbiero. Percussionisti, batteristi di varie estrazioni etniche che insieme vivono una complicità di un progetto discografico di grande sensibilità musicale. Avete sentito un'estrema dolcezza, un'estrema delicatezza, un'estrema sensibilità che esce fuori in ogni attimo di questo pezzo intitolato Cristiana, una composizione originale di Massimo Barbiero, ma che rispecchia praticamente un po' tutto il CD, intervallato anche da interventi vocali sia in parlato che in cantato, molto interessanti, sempre su questo tema dell'uomo invisibile, titolo del CD. Bene, dopo Odvalla è il momento del Vertex Quintet. Cambiamo registro ed andiamoci ad ascoltare questo gruppo formato da Emanuele Evangelista al pianoforte, Roberto Zecchini alla chitarra, Marco Postacchini che suona sia il sax tenore, il sax soprano e il clarinetto basso nei vari pezzi, e poi Gabriele Pesaresi al contrabbasso e Ananda Gari alla batteria. Il CD in questione è intitolato Fermata Obbligatoria e il CD è stato pubblicato da Notami Jazz. Il pezzo che ho scelto per voi è uno tra i più interessanti di questo CD, o almeno per me lo è stato, ed è appunto proprio il pezzo che dà il titolo al CD, Fermata Obbligatoria. Vertex Quintet. Buon ascolto. Thank you. E questo era il validissimo Vertex Quintet dal CD Fermata Obbligatoria pubblicato da Nota Mi Jazz. Si tratta di un disco veramente molto interessante, che ha delle istanze contemporanee ma nello stesso tempo un grande rispetto per la grande tradizione. Il CD è veramente equilibrato, ci sono delle performance personali veramente ottime, di grande valore tecnico, senza mai strafare, quindi senza mai arrivare a quei livelli di virtuosismo per strappare a forza l'applauso, ma con grandi prestazioni personali. Nello stesso tempo un bel collettivo che suona con grande complicità e con grande partecipazione al progetto intero. Emanuele Evangelista è al pianoforte, Roberto Zecchini alla chitarra, Marco Postacchini al sax, sia tenore che soprano, e al clarinetto basso, e si alterna appunto nelle varie tracce con questi tre strumenti, Gabriele Pesaresi al contrabbasso e Ananda Gari alla batteria. Veramente un ottimo gruppo per questo CD intitolato Fermata Obbligatoria, poi il titolo anche del pezzo che ci siamo ascoltati stasera. E adesso è il momento di un grande del jazz italiano, Roberto Magris, un pianista compositore che ha realizzato il nuovo progetto discografico intitolato Enigmatics, realizzato insieme a Dominique Sanders al basso, Brian Stever alla batteria, Pablo Sanuesa alle congas e percussioni, e poi in un pezzo è presente anche la cantante Monique Daniel. Stasera noi ci ascolteremo proprio il pezzo che apre l'album, una composizione originale di Roberto Magris intitolata Enigmatics Part 1. Buon ascolto! Thank you. Questa è l'interessante musica di Roberto Magris, il pezzo che apre l'album intitolato Enigmatics Part 1. L'album si chiama Enigmatics. Si tratta di una composizione originale di Roberto Magris che sicuramente apre anche alle presenze musicali di questo CD, che sono presenze internazionali, e quindi c'è un incontro di culture molto interessante, molto stimolante. Roberto Magris, così come è il jazz, è un musicista che abbraccia, così appunto è la musica del jazz, che è una musica che accoglie, una musica che riesce a far convivere realtà diverse, le diversità culturali, etniche e le culture diverse, e riesce a fornire dei prodotti finali che sono il succo di questa, di questo bell'incontro. Gli incontri tra le diversità spesso tra gli uomini sono sempre caratterizzate dalla paura, mentre in questo caso dall'accoglienza, dalla conoscenza e sicuramente dall'integrazione. Ed è un bel esempio di integrazione di culture musicali, con questa forte ritmica che ci riporta ad altre culture, anche la nostra italiana sicuramente, ma ad altre culture mediterranee, e sicuramente il grande background europeo, italiano ed europeo, si sposa anche con la musica del Mediterraneo. Quindi un bel incontro di culture, questa espressa nel CD Enigmatics. Ce lo siamo ascoltati questo incontro attraverso il pezzo Enigmatics Part 1. Ricordo la formazione: Roberto Magris al pianoforte, compositore di questo pezzo, Dominique Sanders al basso, Brian Stever alla batteria, Pablo Sanuesa alle congas e percussioni. Bene, adesso passiamo a una giovane, validissima cantante italiana. Si tratta di Jasmine Tommaso. Jasmine Tommaso è figlia d'arte, la figlia del grande contrabbassista Giovanni Tommaso, e ha realizzato un bel CD intitolato Nelle mie corde, pubblicato dall'Alfa Music. Un CD veramente molto particolare, che mette in evidenza le ottime qualità di questa giovanissima cantante, che con questo CD veramente per la prima volta si mette in evidenza a livello nazionale. Jasmine Tommaso alla voce, Claudio Filippini al pianoforte, Giovanni Tommaso al contrabbasso, Marco Valeri alla batteria, e poi c'è anche uno special guest in questo CD, che è il grande Fabrizio Bosso alla tromba. Stasera noi ci potremo ascoltare una bella interpretazione molto intensa di In a Mellow Tone, scritta da Duke Ellington e Milt Gabler. Buon ascolto quindi con Jasmine Tommaso. Ta-da! mellow tone, feeling fancy free, and I'm not alone. I've got company, everything's okay. The live long day with this mellow song. In a mellow tone, that's the way to live. If you move and go, something's got to give. Just go your way and let them play. There's joy unknown in a mellow tone. Bene, questa era Jasmine Tommaso. Jasmine Tommaso è una passionaria, una giovane che vive con il cuore in mano e che interpreta i pezzi di questo bel CD intitolato Nelle mie corde con grande verve, con grande proprietà di linguaggio, con una maturità che non è assolutamente facile trovare in cantanti della sua età, ma nello stesso tempo veramente con il cuore, quindi con grandi capacità interpretative, con una naturalezza e una spontaneità che gli è propria, che gli è appunto nelle sue corde, nelle corde di una ragazza sicuramente che vive con entusiasmo, con gioia la vita e con grande passione la musica, anche grazie agli insegnamenti, all'amorevole passione infusa da suo padre, il grande Giovanni Tommaso. Ricordo la formazione, una formazione importante: Jasmine Tommaso alla voce, Claudio Filippini al pianoforte, Giovanni Tommaso al contrabbasso, Marco Valeri alla batteria, e poi abbiamo questo straordinario special guest che è sempre Fabrizio Bosso. In ogni occasione non delude mai, riesce sempre a offrire delle performance meravigliose. Lasciamo Jasmine Tommaso con questo bel CD Nelle mie corde, pubblicato dalla Alfa Music, dal quale ci siamo ascoltati una interessante interpretazione molto sentita di In a Mellow Tone, ed andiamoci ad ascoltare un validissimo chitarrista. Si chiama Ian Sturiale, che noi abbiamo già promosso nei nostri programmi. Il suo ultimo CD è intitolato Electric Water. Ian Sturiale alla chitarra, e poi abbiamo Bob Reynolds al sax tenore, Vardan Ovsepian al pianoforte, Damian Erskine al contrabbasso, Juan Orton alla batteria e Tatiana Parra alla voce. E noi ci ascolteremo proprio il pezzo che è una composizione originale di Ian Sturiale, il pezzo che dà il titolo all'album, Electric Water. Ian Sturiale, buon ascolto. Quindi questa era la musica del grande Jan Sturiale, un ottimo chitarrista che ci ha presentato la sua ultima composizione intitolata Electric Water, tratta proprio dal CD che porta il suo nome. Una musica ricca di tensioni con questa forte base ritmica, una musica che tiene conto delle esperienze storiche del jazz rock, del funky, e riesce a vivere di una sua autonomia con le invenzioni, con le intuizioni musicali di Jan Sturiale, che è non solo un grande tecnico, ma un musicista di grande sensibilità, di grande capacità interpretativa, oltre che essere uno straordinario tecnico. Jan Sturiale alla chitarra, Bob Reynolds al sax tenore, Vardan Ovsepian al pianoforte, Damian Erskine al contrabbasso, Joan Orton alla batteria e Tatiana Parra alla voce, presente in alcuni pezzi del CD. Questo era Electric Water e siamo arrivati all'ultimo pezzo della serata. L'ultimo pezzo della serata dedicato alla musica di Gil Evans. Ryan Truesdell, insieme al suo Gil Evans Project, ci farà ascoltare Gypsy Jump da questo progetto discografico intitolato Lines of Color, Gil Evans Project Live at the Jazz Standard. Buon ascolto quindi con l'ensemble di Ryan Truesdell. l'energia, la vitalità delle grandi orchestre, delle grandi bands. Ryan Truesdell con questo suo Gil Evans Project ci ha fatto ascoltare Gypsy Jump dal CD Lines of Colors, Gil Evans Project Live at Jazz Standard, un pezzo veramente di grande vivacità, stimolante e molto gradevole, che chiude la nostra puntata con la bellezza della storia del jazz mondiale. Il prossimo appuntamento è come sempre a giovedì prossimo, quindi ciao ciao a tutti da Bruno Pollacci e da Anima Jazz.